Bookstock innanzitutto propone ai ragazzi di non essere solo destinatari di incontri che altri hanno deciso per loro, ma di essere gli organizzatori, i pensatori. Abbiamo organizzato un comitato di ragazzi che ha lavorato attivamente per 3 mesi a stabilire, a provare a pensare delle domande da fare all'Italia. Quindi quello che propone è un incontro con interlocutori, autori che vanno da Alessandro Bergonzoni a Stefano Benni, a Maurizio Maggiani, a Luciana Castellina, che insieme ai ragazzi e sulla scorta di un lavoro di mesi fatto con i ragazzi proveranno ad articolare all'Italia alcune domande. Come si fa a far avvicinare i ragazzi alla lettura? I ragazzi, ma credo in genere l'essere umano, vogliono avere gli occhi delle persone che stanno bene, che sono contente. Quando un ragazzo, un bambino vuole il giocattolo di un suo amico è perché vuole i suoi occhi, non perché vuole il giocattolo, semplicemente appassionandosi. Se un ragazzo vede gli occhi di un lettore e dentro quegli occhi vede qualcosa, vorrà leggere anche lui. È l'unica strada possibile. Quindi è una questione di buon esempio? Assolutamente, responsabilità, buon esempio e passione. Non c'è altra strada.